Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di robot, parliamo di umani e umanoidi. E questo è il titolo di un libro di Roberto Cingolani e Giorgio Metta, che hanno messo in luce, che mettono in luce come, che cosa si sta facendo sul fronte della robotica. Buonasera, professor Cingolani. Buonasera. Roberto Cingolani è fisico, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, e buonasera al professor Giorgio Metta. Buonasera. Giorgio Metta è ingegnere, direttore dell'iClub Facility dell'Istituto Italiano di Tecnologia e anche professore di robotica cognitiva all'Università di Plymouth. Ecco, umani e umanoidi. Professor Cingolani, parliamo di robot, ne abbiamo sentito parlare moltissimo, anche voi introducete il libro parlando dei film di fantascienza, ma in realtà a che punto siamo nella realizzazione di un robot umano che abbia le sembianze di una persona e che in molte funzioni possa sostituire una persona? Professor Cingolani. Ma dunque, io direi che al momento la vera novità è che da qualche anno a questa parte la comunità scientifica ha cominciato a rivedere, diciamo, uscire dal paradigma della robotica come era intesa sino a poco tempo fa, cioè un insieme di ingranaggi che attuano dei movimenti da un lato e poi da un altro lato un gruppo di scienziati che studia l'intelligenza artificiale con dei grossi computer. Si comincia a mettere le due cose insieme, cioè a riprodurre il nesso fra corpo e mente che c'è nell'essere umano e che è veramente la cosa che ci differenzia dalle macchine e dai computer. Questo vuol dire riscrivere dal basso, no? da zero l'idea della robotica, inserendo tutta una serie di caratteristiche umane come i sensi della vista, del tatto, una capacità di muoversi molto simile alla nostra, in grado di essere quindi robot flessibili, di essere sociali, di interagire con gli umani. È una riscrittura, dobbiamo copiare però molte ricette che la natura ha sviluppato per l'uomo, quindi è un cammino molto lungo. Ecco, un cammino molto lungo. A che punto siamo? Da 1 a 100 nella riproduzione della persona? Ovviamente speriamo di non arrivare mai a 100 a un robot che ci sostituisca completamente, che ci renda inutili, ma da 1 a 100 che cosa può fare adesso un umanoide, professor Cingolani? Diciamo che è domanda trabocchetto, nel senso che dobbiamo definire il 100, non sarà mai un essere umano per ovvi motivi, non avrà mai quella parte, diciamo, di fantasia, creatività, quella parte ormonale. Quindi nel momento in cui si vuole riprodurre un oggetto che come biomeccanica è simile all'essere umano, no? E come consumi energetici è simile, come capacità così di intelligenza è paragonabile a un bambino, ecco, allora a quel punto si può dire che siamo abbastanza avanti e che questi robot possiamo cominciare a pensare a robot domestici che ci aiutano in casa, che ci sostituiscono sul lavoro negli ambienti pericolosi o per i lavori gravosi, oppure robot i cui componenti, per esempio gambe, braccia eccetera, possono essere utilizzati come protesi intelligenti su un umano che ha perso, diciamo, qualche mobilità. E da questo punto di vista l'accelerazione degli ultimi anni è stata molto forte e si cominciano a vedere i risultati. Ecco, professor Giorgio Metta, voi nel vostro libro parlate molto dei robot che aiutano soprattutto in campo sanitario, in campo assistenziale, in campo anche chirurgico, con le operazioni che possono fare i robot con una precisione che gli umani non hanno, perché gli umani un po' tremano le mani ogni tanto, speriamo non ai chirurghi, però a un certo punto c'è una precisione dei robot che è anche superiore a quella degli umani. È un campo, questo sanitario, in cui ci possono essere più forti sviluppi? Professor Metta. Sì, certamente sì, è il campo dove anzi vedremo gli sviluppi proprio a breve, sia perché in quel caso il robot non è tanto intelligente ma è operato sempre dal chirurgo umano, se pensiamo alla robotica chirurgica, se pensiamo invece alle macchine per la riabilitazione o agli esoscheletri o appunto alle protesi, sono tutte cose dove l'intelligenza ce la mette l'essere umano e il robot fa da aiuto, aumenta la forza oppure sostituisce il muscolo che è debole e non riesce a funzionare più come dovrebbe. Quindi quell'area lì sarà sicuramente quella che a breve avrà maggior impatto appunto nella nostra qualità della vita. Poi c'è tutta l'area che invece ha a che vedere con l'assistenza, e in questo caso il robot dovrà essere in grado di muoversi e di fare alcune azioni in maniera autonoma, e questa è la direzione nella quale stiamo lavorando di fatto. Ecco, voi professor Cingolani all'Istituto di Tecnologia di Genova avete realizzato o state progettando un robot umanoide, a che punto è? Dunque, in questo momento abbiamo diverse piattaforme che sono già piuttosto avanzate. Beh, quella più nota anche al grande pubblico è quella di iCab, che diciamo il cui padre appunto è Giorgio Metta, che è in linea con noi in questo momento, ed è questo robotino bambino pensato proprio come bambino, perché è in età cognitiva, no? Cioè è un bambino che impara, quindi si vuole anche in qualche maniera presentare l'idea di questa macchina in grado di imparare. Poi abbiamo delle piattaforme di addirittura di quadrupedi, sono macchine idrauliche pensate per situazioni molto complesse, sono degli animaloidi, diciamo. E poi di recente è stata sviluppata una macchina molto più grande, un adulto, che si chiama Walkman, l'uomo che cammina, che è quello che ha partecipato alla recente competizione del DARPA negli Stati Uniti, che è un bestione di 1,90 m, pensato per lavori estremamente gravosi. Questo in particolare è stato pensato per operare in ambienti complessi come quelli del disastro di Fukushima, della centrale nucleare giapponese. Quindi su queste piattaforme ci muoviamo, e uno degli obiettivi è di renderle sempre più fruibili agli istituti di ricerca internazionali. L'iCab, per esempio, è realizzato in quasi una trentina di esemplari, sono in giro per il mondo e sono utilizzati da tanti laboratori come piattaforma open source. Ecco, professor Metta, questa mattina lei ha avuto il caffè dall'iCab, probabilmente ne ha uno a casa. Ma a che punto? No, non se ne è costruito uno per uso personale, no. Senta, ma a che punto è l'Italia in questa prospettiva? Si dice spesso l'Italia è un po' a qualche passo indietro rispetto agli altri paesi nella ricerca scientifica. Su questo fronte mi sembra di capire che comunque siamo all'avanguardia. Ma direi proprio di sì. Se prendiamo il caso di IT, noi abbiamo 3-4 piattaforme e sono allo stato dell'arte, anzi in alcuni casi, come quello di iCab, è la piattaforma più diffusa al mondo per la ricerca appunto nel campo della robotica legata all'intelligenza artificiale. Quindi direi una posizione di tutto rispetto dell'Italia nella robotica mondiale. Poi diciamo per quanto riguarda l'Europa abbiamo una presenza italiana molto forte, ad esempio in tutte le associazioni che scrivono i futuri programmi di ricerca per la Commissione europea. Ecco, professor Cingolani, voi concludete il vostro libro parlando di etica, diffondere i robot nella società, promuoverne l'accettazione da parte dei cittadini, mettendo a punto regole di coesistenza e regole etiche di utilizzo della robotica. Ecco, siamo al punto di dover chiedere appunto queste regole e anche di sollecitare appunto l'accettazione. Il robot è qualcosa che si vede come estraneo, come qualcosa che invade un po' la nostra vita nella realtà. C'è bisogno di questa mobilitazione culturale, possiamo dire, professor Cingolani? Guardi, assolutamente. Intanto è sempre comunque doveroso parlare di etica e di utilizzo di qualunque tecnologia, anche delle più semplici. In generale non è mai tempo sprecato, anzi. Tenga conto che non dobbiamo meravigliarci di una posizione di questo tipo. Noi abbiamo le automobili e abbiamo un codice della strada, no? Ovviamente l'automobile è un robot estremamente semplice rispetto ai robot di cui parliamo. Ciò nonostante abbiamo fatto delle regole, no? Le regole di convivenza fra l'essere umano e il mezzo che l'essere umano guida. È ovvio che in un futuro in cui ci saranno tante macchine robotiche, non automobili, ma proprio robot, casomai umanoidi o macchine sociali che interagiranno con l'essere umano, sarà necessario avere dei codici di utilizzo, dei codici di impiego, e non è escluso che, trattandosi probabilmente in futuro anche di macchine in grado di prendere decisioni, per carità non particolarmente complesse, ma decisioni operative, vado a destra o vado a sinistra, faccio questo o faccio quest'altro in funzione delle condizioni, delle situazioni, è anche giusto capire quali sono i limiti, i pericoli, e per certi versi cominciare ad avere uno schema di azione rispetto a macchine che possono avere capacità di decidere una certa forma di intelligenza. Quindi credo sia un atto di responsabilità della comunità scientifica prevedere e parlare di queste cose. Ecco, anche perché appunto voi parlate all'inizio dei film di fantascienza, in alcuni film di fantascienza i robot sono contro gli umani, addirittura in Odissea dello Spazio c'è appunto questa scena in cui l'astronauta deve spegnere il robot per sopravvivere, perché il robot aveva una capacità diversa. Ma andando poi, tornando appunto alla concretezza, vorrei fare un'ultima domanda, professor Metta: quali sono gli ostacoli principali che avete adesso nello sviluppare questi robot, proprio dal punto di vista tecnico, ovviamente molto semplicemente, professor Metta? Ma il problema fondamentale è che questi robot al momento sono composti ancora da troppi componenti, tanti componenti meccanici, ingranaggi, leveraggi vari, elettronica, tutte cose che alla fine possono rompersi, per cui l'affidabilità è ancora piuttosto bassa. Se pensiamo invece a dei robot che dovranno interagire con l'essere umano, abbiamo necessità proprio di affidabilità elevata, un po' come il corpo umano, che a differenza dei robot non è meccanico, è fatto da materiali particolari, è fatto da componenti che sono integrati, intrinsecamente integrati. Ecco, una cosa che dovremmo fare è proprio andare in questa direzione, quindi progettare dei corpi per i robot che siano fatti da nuovi materiali che hanno direttamente le funzioni che ci interessano, come ad esempio la cedevolezza del muscolo umano, piuttosto che la capacità appunto di interagire senza fare danni, la morbidezza del corpo di una persona e così via. Tutte queste proprietà dovranno essere integrate nel corpo del robot in maniera armoniosa, non dovranno più essere tanti componenti incollati più o meno insieme. E questa è una direzione importante e il prossimo futuro probabilmente vedrà dei corpi, dei robot molto diversi da quelli che vediamo adesso. Ecco, ma non è un obiettivo, diciamo così, temerario, per non, sì, oltre che ambizioso, indubbiamente ambizioso, però c'è un certo confine, avete anche voi un confine etico nel progettare questi robot, professor Metta? Ma c'è certamente il confine etico dell'utilizzo e appunto, come diceva il professor Cingolani, della appunto di darsi un codice su quello che potrà fare il robot. Dal punto di vista del corpo, noi quello che cerchiamo di fare è renderlo più efficiente, sia dal punto di vista appunto dell'interazione con l'ambiente, con l'essere umano, che dal punto di vista energetico. Una volta raggiunta questa efficienza, il robot non sarà necessariamente più forte dell'essere umano. L'importante è che sia invece delicato e possa appunto nell'interazione con l'uomo essere d'aiuto e non faccia danni. Molto meglio un robot morbido che un robot di metallo, ecco, da questo punto di vista. Indubbiamente. Grazie mille. Un'ultima domanda, professor Cingolani, guardando appunto in avanti, però c'è un percorso da fare anche dal punto di vista culturale, perché i robot veramente aiutino le persone e aiutino la società a muoversi verso una società in fondo più giusta, che liberi, come è stato in passato anche per le macchine, gli uomini dal lavoro più pesante, che però abbia degli obiettivi anche di responsabilità e di equità sociale. È possibile inserire questi obiettivi certamente vasti in un'area tecnica, tecnologicamente avanzata come quella della robotica? Professor Cingolani. Guardi, di primo acchito le risponderei che non siamo riusciti a inserire etica e concetti di equità nell'intelligenza umana, si figuri quanto sarà difficile, forse è più facile metterlo nell'intelligenza artificiale. Detto questo, che diciamo una risposta un po' istintiva, io guardi, credo che qualunque macchina, indipendentemente da tutto quello che si possa dire, nasce per aiutare l'essere umano. Poi il fatto che sia utilizzata bene è un problema, certo, di cultura, che deve partire da 6 anni, dalla scuola, dalla divulgazione. La macchina non si usa da sola, no? Cioè, infatti, uno accende, la spegne, come tutte le cose. La sfida è quella. Così come il denaro, così come qualunque altra cosa può essere usata bene o male. E grazie professor Cingolani, grazie professor Metta. Ricordo il libro che si intitola Umani e Umanoidi, ha una frase nella quarta di copertina: tra 20 anni potrebbe esserci un umanoide amico in ogni casa per assistere i nonni, portare i nostri figli a scuola e prepararci il caffè. Speriamo che il caffè sia buono e speriamo di vedere appunto questi umanoidi che ci aiutino nella vita quotidiana. Il libro di Roberto Cingolani e Giorgio Metta si intitola appunto Umani e Umanoidi, vivere con i robot, edito dal Mulino, sono 164 pagine e 15 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagine per sabato prossimo.